Mary Wollstonecraft Shelley pubblicò Frankenstein o il Prometeo moderno nel 1818 senza firmarlo, legandolo invece al proprio nome soltanto nel 1831 in un'edizione rinnovata. Il romanzo narra le angosciose vicissitudini di Victor Frankenstein, il quale, affascinato dalle opere di Cornelio Agrippa, Alberto Magno, di Paracelso, tutto preso dalla filosofia naturale e dalle novità della chimica, decide di costruire un essere perfetto mettendo assieme organo su organo quel po' di frattaglie che riesce a trafugare nei cimiteri. Come è noto, la creatura che ne scaturisce non troverà motivo alcuno per gioire di essere stata creata, e al dottor Frankenstein mal gliene incoglierà, al punto che nella fortunata reiterazione della sua vicenda sotto forma di film, fumetti, mercanzia varia, perderà perfino il proprio nome, in pratica, che nella memoria popolare gli verrà espropriato ed assegnato al mostro da lui imbastito. Questa passione per trasformarci tutti in piccoli chimici della vita altrui ci è rimasta addosso e se ne vedono i segni in certe nostre espressioni pubbliche un po' speciali, come quando ci decidiamo al grande passo di comporre un annuncio economico avente per oggetto la virtuale persona cara che andiamo cercando. Un annuncio economico funziona sempre da selettore. Basta una parola per indurre qualcuno a rispondere e qualcun altro a lasciar perdere. Comporlo dunque è un'arte delicata. Quello su cui voglio soffermarmi io, non in quanto eventuale destinatario, ma in quanto analista dell'animo umano e delle patologie indottegli dal sociale truccato in cui siamo costretti a vivere, beh, questo è uno strutturato secondo quattro fasi narrative ben distinte, come i quattro capitoletti di un romanzo ben congegnato secondo quel modello di scatole cinesi che ben caratterizza peraltro anche il Frankenstein. L'incipit dell'annuncio è riservato all'apoftegma filosofico che, come un'accetta, taglia in due tronconi, presumibilmente disuguali, l'umanità intera. E vorrebbe agire insomma a livello dei massimi sistemi e dice: il limite per me è l'esatto contrario di quello che pensa la massa, accontentarsi. È dunque con una premessa consimile che può passare alla seconda fase, che è quella fase di necessità esposta al doppio taglio della categorizzazione. Da un lato caratterizza chi fa l'annuncio e dall'altro seleziona ulteriormente il suo destinatario tramite le parole stesse usate per la caratterizzazione di chi fa l'annuncio. Pretenzioso 35enne desidera conoscere ragazza. I fori del setaccio si fanno sempre più piccoli. Buona parte dell'umanità può già smettere di leggere. Non è per lei. Chi resiste invece è colei che si considera ragazza, che crede di poter essere interessata a conoscere un 35enne pretenzioso che, ritenendosi molto diverso dalla gran parte degli altri esseri umani, non si accontenta. Resiste dunque e passa alla terza fase, quella dei caratteri, che in un ordine non si può mai considerare del tutto casuale, sono: intelligente, realmente carina, intuitiva, sexy, giovane, non problematica, elegante, maliziosa, sportiva, simpatica, cerebrale, seria e al contempo un po' pazza, mente aperta, consapevole e ricettiva. Direi che, eccetto le metaforizzazioni affettuose degli insulti, c'è praticamente l'intero campionario della positività moderna riversato senza preoccuparsi granché né delle ridondanze, perché che una ragazza non sia giovane o che una sexy non sia affatto almeno carina è difficile, né preoccupandosi della coerenza, perché avere intelligenza, cervello, mente aperta e consapevolezza, e non essere problematica è ancora più difficile, perché la scema, la lobotomizzata, l'ottusa e la dimentica di sé può essere sexy come nei film degli anni 50, ma è difficile che si faccia dei problemi. Chi ha superato questo selettivissimo esame e chi si sente dunque in possesso di tutti questi requisiti può coraggiosamente passare all'ultima fase, quella in cui i caratteri vengono annessi ai comportamenti. Perché il pretenzioso 35enne cerca infatti una amante della cultura, fine settimana in divertente relax, gustosi pranzetti, mercatini di provincia, librerie, cinema de sé, anzi cinema de sé con la E maiuscola, negozi di dischi, calze velate, mostre di pittura, musica live, scarpe di foggia varia, buon vino, corrispondenza, luci crepuscolari, pizza di forno a legna e infine multimedialità. Mentre il povero dottor Frankenstein, insomma, si accontentava dei pezzi fisici che passava il convento, qui il mostro è ricavato da un abile montaggio di elementi mentali, psichici e fisici che, più che da cadaveri vari dissepolti frettolosamente nei cimiteri, provengono dagli scarti metabolici della digestione sociale delle ideologie. Riceverà molte risposte? Due forse sarebbero già troppe per le sue pretese selettive, ma presumibilmente sì, ne riceverà, perché le parole come contrassegni di identificazione, come si sa, valgono pochino, meno dei fatti. Lui stesso, tuttavia, dovrà accoglierle con qualche scetticismo e alla fine ne sarà scontento. Prima o poi si renderà conto di un piccolo particolare che attualmente sembra sfuggirgli. Che l'insieme dei caratteri da lui descritti, ammesso e non concesso che stiano insieme, implica anche, fra i comportamenti, quello di farsi le proprie conoscenze da sé, magari in libreria o un mercatino di provincia, non so, e non rispondere agli annunci economici di quel tipo, e di leggerli solamente per sorriderne.